situazioni molto molto difficili, anche in quel campo, Giuseppe, dove stanno cercando di far girare tutte le persone, di inserirle in questo cacchio di lavoro e far lavorare a giro. Però è anche vero che stanno facendo lavorare sempre le stesse persone. Non so se c'è Luca che ti può spiegare qualcosa di più. Luca. Hai sentito cosa ha detto Giuseppe, o sei impegnato a robotte? Non hai sentito allora? No, non c'è una pazza, ce lo sono fatto, dimmi. Fernandez dice come mai in quella situazione dei socialmente utili lui ha fatto tutte e tre domande, sia al verde urbano, sia alla raccolta differenziata, cosa cacchio è quella della raccolta dei tappi di sughero, non lo so cosa cazzo è, che raccolte sono. Come mai non lo chiamano? Perché? Spiegagli perché. Perché se non è ingannato non lo chiamano. Sentite Giuseppe e Luca. Io ho sentito, ma la graduatoria a stagione E, anche più, che io sono iscritto dal 2001 e ce ne sono iscritti dopo di me, tanto preferisco chiamare quelli dopo di me che non ha mai capito, è quello che non riesco a capire, perché chiamano quelli là prima di me, tanto che io sono iscritto dal 2001 e chiamano gli altri dal 2003-2004 e che me l'ha confermato a me amici miei che lavorano nel comune, che insomma, erano disoccupati nel 2003, capito? Quelli sono in categoria tutti, ecco perché passano prima di te. Cosa c'entra? Io sono da 90, da 90 che faccio le domande, ok? Prima di me, siccome io ero in graduatoria, come Claudio sa bene, che lo sei, in graduatoria, è subentrato questo qua, categoria protetti, che era dopo di me, però lui siccome categoria protetti mi ha superato, ho dovuto aspettare, capito? Ho capito Luca. E cosa dobbiamo fare? Cosa devo fare io? E più di questo, è più andare all'assistenza sociale e ausiliarli molto, ho capito, perché altra gente l'hanno aiutato. A me, che gli ho fatto queste domande qua, mai una cosa mi hanno dato. Solo una volta solo sono permessi a farmi lavorare lì a Tronco Reale, un mese e mezzo. Ecco, chiamati dal conto, dove vai a cosa, cazzo si chiama, mi va la troccia. Non so, ma lì funziona così. Quindi per esempio adesso ho fatto 4 mesi di edilizia, ok? Manutenzione. Però nel guardo urbano sono in graduatoria io, capito? Cosa succede? Siccome quest'anno non ce la fanno, perché arrivano, mi sembra, io sono 41 mesi, mi sembra, una cosa del genere, e loro arrivano massimo a 30, perciò quest'anno non rientro. Se non perdo la graduatoria, forse al prossimo anno mi chiamano. Se perdo la graduatoria devo ripetere di nuovo la graduatoria, cioè devo fare domande e aspettare la mia graduatoria di nuovo, da capo. Faccio un video, una spiegatura. Invece uno che con me, grazie a me autista, ci ha fatto 4 mesi di autista, dopo piccoli passati 9 giorni sta facendo altri 4 mesi di guardo urbano per vivere la qualifica di giardiniere, ok? Poi, come si dice qua, 4 mesi, rientra a gennaio di nuovo. Va bene che dopo che ha fatto 4 mesi ti richiamano nuovamente altri 3 mesi. E vabbè, comunque lì lui la scusa che la patente C in più la qualifica come giardiniere, eccolo quel problema. Da lì, capito? E allora niente, entra sempre la scusa che ha la qualifica, capito? Comunque, vabbè. Ma per lui, io come generico ce ne sono 50.000 generici, 50.000. Purtroppo è così, non si può dire. Avanti, mi aspetto 10 minuti, 20 minuti, vado a mangiare. Vai, grazie. tardi che io vado fuori via dall'altra pacco e rientro a casa, dai. Ciao, arrivederci, ci sentiamo da casa, dai. Ciao, ciao. Ciao, Giuseppe, ciao. Beh, Stefanini, sì. Grazie per bambino, poi da bene giù. No, là, Giuseppe ha chiuso, sta andando via dal trabacco. Sono qua. Ti mostra la maglia quest'anno, là.